per rimedio non v'è compenso, non v'è. Mi sento rodere quando ci penso, son tutto fiala, tutto velano, ardo le viscere, mi brucia il seno, prima di perderlo voglio crepar. Non v'è rimedio, mi sento rodere quando ci penso, non v'è compenso, son tutto fiala, tutto velano, ardo le viscere, mi brucia il seno, prima di perderlo voglio crepar. Prima di perderlo voglio crepar. Prima di perderlo voglio crepar. Voglio crepar. Voglio crepar. Mi sento rodere quando ci penso. Non v'è rimedio, non v'è compenso. Mi sento rodere quando ci penso. Son tutto fiele, tutto veleno. Ardo le viscere, mi brucia il seno. Perderla voglio crepar. Non v'è rimedio, non v'è compenso. Mi sento rodere quando ci penso. Son tutto fiele, tutto veleno. Son tutto, tutto, tutto, tutto fiele. Ardo le viscere, mi brucia il seno. Prima di perderla voglio crepar. Quello stregone che non è altro co' seppellone, ad appentirsene sa rimpiccar, ad appentirsene sa rimpiccar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro co' seppellone, ad appentirsene sa rimpiccar, ad appentirsene sa rimpiccar. Quello vecchiaccio, quello stregone, sa rimpiccar. Quello vecchiaccio, sa rimpiccar. Quello stregone, sa rimpiccar.